ventilate mi si frenetici, anche più calmi ma benefici. Sulla testa ho quel cuore di calpesta. Quel che so, già lo so, quel che scuro sembra più duro. Ne sono sicuro, la strada nuova rompe le uova, ma quella gente che è sofferente, ma non fisicamente, ma di pigrizia della mente. Senza le carte, lì dove andremo è un mondo a parte. Il programmino di Gigi D'Agostino, la chiudi gli occhi e attento il gradino. Accendi solo il tuo sensore, chiudi gli occhi e per due ore. Lamponi e more. E i colori di un bel fiore. E che fiore! Buongiorno, popolino! Questo è il programmino, io sono Gigi D'Agostino. E siamo qui oramai da un po' di puntate. Questa qui è la puntata numero... quella lì, no, non me la ricordo, ma non è importante. È comunque bello essere qui da tanto tempo. Questa è la storia di un uomo che oggi vuole cominciare il programmino cantando sul tetto come uno spazzacamino. La la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Sul tetto della vostra casa, la vostra mente è invasa dai suoni, dalla struggenza, le melodie. Percorsi. Che canta. Che ama la vita. Gli scorre tra le dita. Alza la testa e guarda lassù. Dove state guardando anche voi? Questo è il mondo del programmino, del nostro cammino, del vostro cammino, della gente che ascolta, che guarda, che vive, che pensa. Che che ama. Ancora un viaggio è cominciato anche oggi. Da tutto il mondo, questo cammino. È il programmino. Potete scriverci, scrivere qui al programmino a Gigi D'Agostino, che sarei io. 333-6467-662, i vostri pensieri in rima. Un altro disco non ci sta. C'è la pubblicità. RIN, Radio Italia Network, il programmino di Gigi D'Agostino. Che sarà? Canto domani. Zucche al sole, un ferito e un uomo castrato, il tutto in 2 ore. 2 ore che ti ho lasciato solo, 2 ore. Thank you.

chi è presente, se c'è da fare. Buon Natale ai viaggiatori, ai sognatori, ricercatori, a voi ascoltatori. Ringraziare tutte quelle persone che mi stanno scrivendo, mi stanno vicino, mi danno la possibilità di continuare a esserci, a fare tutto ciò. Molta gente mi ha scritto per dirmi ciò che pensa sul disco che è uscito, sul programmino, su quello che cerco di fare. Grazie. Noi vogliamo essere con voi. Voi volete essere con noi. Noi vogliamo essere con voi. Stare con voi. Guardare voi. Parlare con voi. E voi con noi. Il popolo del programmino. Il grande viaggio che c'ha coraggio va in giro per l'Italia. Grande raduno di Centro Italia, Latina, discoteca 24.000 baci. E Gigi D'Agostino. Grande evento. 31 dicembre, Capodanno a Rimini, discoteca Altro Mondo, e lì succederanno cose molto strane. Dalla prossima settimana regaleremo anche dei pacchetti vacanze. E poi mi spiegherò nella prossima puntata esattamente di cosa si tratta. Regaleremo diversi pacchetti vacanza per essere presenti all'altro mondo e partecipare al grande viaggio. Al triangolo del piede. Che non si siede. Lui ci crede. Il numero della messaggeria, se volete scrivere qui a Gigi D'Agostino al programmino, è 333-6467-662. Se volete mandare una mail a gigi@supergigi.com. Se volete viaggiare, navigare, www.gigidagostino.com. Il popolino del programmino alza le mani al cielo. Sintonizzati, liberati, abbracciati. Sulla testa.

guardo il cielo, la pensa che non c'è più tempo, è stato tempo. E poi ci penso, e ci ripenso, e poi ripenso, che è meglio se ci penso, ma quanto penso.

RIN, Radio Italia Network. Il programmino di Gigi D'Agostino. Che sarà? Italia Network, il programmino di Gigi D'Agostino.

Radio Italia Network, il programmino di Gigi D'Agostino. Ci sarà. Quando c'è Gigi, è sempre più forte. E il programmino in silenzio continua il suo cammino. We'll be right back. Arrivederci.